Ugo, credo che non potrei vedere la tua partita questa sera. Come? Dobbiamo uscire. Che? Il dottor Riccardelli. No. Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco. No! Ma con sottotitoli in tedesco. È una cagata pazzesca! Sei uno stronzo! Bravo! 92 minuti di applausi! Hai capito? Merda!